Il lavoro risultò la più gran cosa della sua specie che avessimo mai affrontata. Cominciamo allegramente, si potrebbe dire quasi leggermente, ma la nostra incuranza s'era bella e dileguata nel momento che la prima patata fu finita. Quando le fu tolta tutta la buccia e le furono tolti tutti i bitorzoli, la patata non c'era più. Almeno nulla che si potesse considerare quale una patata. Venne Giorgio e le diede un'occhiata, e essa era più o meno della dimensione d'una noce moscata. Egli disse: «Così non va, dovete raschiarle». Così le raschiammo, ma era più difficile che sbucciarle. Sono di una forma così bizzarra le patate, tutte bozze, escrescenze, fossette. Lavorammo gaiamente per 25 minuti e avevamo raschiate 4 patate. Poi cessammo, dicendo che ci sarebbe voluta tutta la sera per raschiare noi stessi. Giorgio disse che era assurdo avere solo 4 patate in uno stufato irlandese. Così ne lavammo un'altra mezza dozzina e le mettemmo nello stufato, senza sbucciarle. Aggiungemmo anche un cavolo, un paio di chili di piselli. Giorgio rimescolò il tutto e poi, avendo osservato che vi rimaneva tant'altro spazio, frugammo nelle due ceste e ne cavammo quanto ne potemmo cavare, da aggiungere allo stufato. V'era un mezzo pasticcio di maiale, un pezzo di prosciutto cotto avanzato, mettemmo anche quelli. Poi Giorgio trovò una mezza scatola di salmone e la vuotò nel recipiente. Disse che quello era il vantaggio dello stufato irlandese, ci si poteva sbarazzare d'un mucchio di roba. Fu un gran buon successo quello stufato irlandese. Un po' troppo pesante, forse, per uno stomaco debole, ma sostanzioso. E beh, oltre all'ozio che attraversa tutto il libro, c'è anche la completa incapacità di fare, cioè 25 minuti per pelare 4 patate, no? Non c'è dubbio. Ma qui questi due pezzi, cioè prima di tutto la fifa del cane che va via adattando la coda accuratamente nella sua scanalatura, cioè è il cane, anche lui verboso, che appena vede un gatto deciso cambia strada e non vuol sentirne più parlare. E poi una vera meraviglia, secondo me, è la bestemmia gastronomica, sì, che mettono in piedi, che è lo stufato irlandese, insomma, anche questa mascherata sotto il desiderio della novità, dello studio, della preparazione, un happening gastronomico, assolutamente. Proprio alla fine il loro sogno di tutta questa esperienza è di tornare alla loro, virgolette, normalità. Normalità, sì, esatto. Sì, insomma, una certa stanchezza anche per lo stufato irlandese. Ecco, tra poco arriveremo proprio a questo finale, che non si capisce se è inglorioso o glorioso, perché se lo prendete come un libro di avventura, almeno all'inizio è un finale inglorioso, perché parte questa gita sul Tamigi, dopodiché dopo 3 giorni sostanzialmente mollano la barca con i bagagli e prendono il treno per tornare a Londra e si ficcano dentro un locale che conoscono bene a mangiare. Un finale inglorioso, un finale glorioso in realtà per i nostri 3 amici che scusi, è gloriosissimo perché hanno scoperto che non hanno malattie, che devono solo mangiare e bere, che, cioè, tutte le scoperte che potevano fare le hanno fatte. Credo che fosse proprio un inglese che diceva: il mondo si impara a conoscere non viaggiando. Questo è, mi pare, citato a proposito di questo libro. Loro imparano a conoscersi non viaggiando, in questi pochi giorni sul Tamigi imparano un mucchio di cose, insomma. Noi avevamo ingannato il barcaiuolo di Pangbourne. Non avevamo avuto il coraggio di dirgli che si stava per fuggire dalla pioggia. Avevamo lasciato la barca e quanto conteneva in sua custodia, con l'istruzione che doveva essere pronta per le 9 della mattina dopo. Se, gli dicemmo, se qualche circostanza imprevista avesse dovuto impedire il nostro ritorno, gli avremmo scritto. Raggiungemmo la stazione di Paddington alle 7 e ci dirigemmo al ristorante dove già aspettava la cena. Devo confessare che quella cena ce la godemmo. Sembrava che per circa 10 giorni non fossimo vissuti, più o meno di nient'altro che di carne fredda, torte, pane e marmellata. Era stata una dieta semplice e nutriente, ma non era mai stato nulla di stuzzicante. E l'odore del Borgogna, e l'odore delle salse francesi, e la vista dei tovaglioli puliti, dei panini lunghi, picchiarono come un graditissimo visitatore alla porta del nostro intimo io. Noi continuammo per un po' a inzepparci e a imbottarci in silenzio, finché venne l'ora che, invece di seder ritti e impalati a maneggiare saldamente il coltello e la forchetta, ci abbandonammo sulla sedia e lavorammo lenti e con comodo. L'ora che stendemmo le gambe sotto la tavola, lasciammo incuranti cadere i tovaglioli sul pavimento ed avemmo il tempo di esaminare con occhio critico il soffitto fumoso, cosa che prima non avevamo fatta. L'ora che posammo il bicchiere sulla tavola a tiro della mano e ci sentimmo buoni, pensierosi e disposti al perdono. Allora Harris, che era seduto vicino alla finestra, tirò da parte la tenda e guardò al di fuori. La via scintillava di pioggia, i fiochi fanali vacillavano a ogni raffica, l'acqua scrosciava forte nelle pozzanghere e strepitava dalle grondaie nei torrentelli dei rigagnoli. Pochi passanti inzuppati correvano, rannicchiandosi sotto gli ombrelli gocciolanti. Le donne sollevavano il lembo delle gonne. «Bene», disse Harris, sporgendo la mano al bicchiere. «Abbiamo goduto delle belle gite e i miei cordiali ringraziamenti al vecchio padre Tamigi. Ma credo che abbiamo fatto bene a dargli il ben servito a tempo. Ecco, tre uomini felici fuori dalla barca». E Montmorency, ritto sulle gambe di dietro, innanzi alla finestra, emise un breve latrato, certo per unirsi al brindisi. Tre uomini in barca per non parlar del cane, di Jerome K. Jerome. Intervista a Cesare Rimini di Simone Spezia. Voce di Stefano Guizzi. Riduzione radiofonica di Marco Rampoldi e Guido Scotti. Pagine per il futuro torna la settimana prossima.